insieme per trasmettere. Zero che sbraci, che arde ormai da tanti anni. Due semplici ragazzi che continuano a far danni. Salti nel buio come stelle dentro buchi neri. Risorti come la luce in mezzo ad oscuri sentieri. Questo è il futuro, nel presente tu doveri. Ho guardato nel passato, ma ancora non esistevi. Oggi come ieri, ancora sotto assedio. La vita qui non cambia, non c'è nessun rimedio. Sorvolo il sottosuolo e vedo masse da sopprimere. Rimango in questa guerra anche se c'è da sopravvivere. Sgancio mine vaganti come in dimista test. Continuo a lavorare anche se sono sotto stress. Zero cash sa dare eleganza col mai. Come nero d'eleganza al suo nome con gli spray. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Zero cash sa dare eleganza col mai. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Zero cash sa dare eleganza col mai. La stazione zasta, ritorno il tuo focato col sol che ti devasta. Tua anima l'asta, alimentando sto fuoco in terra arsa, detonando perché sta esplosione. Dove la situa è ardua, la scena si riscalda. Salda l'unione di due uomini che a 360 narrano di vita sarda. Dal sul ci senti calza, dal basso avanza. Fuori usciti col siero dalle fogne, pronti alla rivalsa. Scanso la massa a casa, bimbi a casa. Veniamo a prendervi come Don Cos, chiudetevi a chiave la stanza. Tornati sul pianeta per l'ascesa, la stanzetta è nuovamente in piazza per la gara. Per questa staffetta, Matrix Elite. Terza staccaci, cliccaci, ci trovi sotto il link la stanzetta punto connettiti e vedrai quanto ti basta per dir sì alla sostanza che ti trasmette questo click. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Che ci sarà eleganza col mai. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Endia schiaccio fuoco. Che ci sarà eleganza col mai.